due strade, viatici, di facce assurde e occhiali scuri. 26 è lì, fra due mura. Sdraiato, zittisce gli umori di un altro giorno rubato, ne assorbe gli odori, ne sputa i riflessi, cornice di gesso, ma sotto insiemi dispersi. Sembra avere una profonda ferita. Di fronte 27 sembra avere una profonda ferita. Sembra avere una profonda ferita. Si è rotto la testa sulla finestra.